Radio 24 Reportage. Amatrice, racconto dai luoghi del terremoto, di Laura Bettini. È mattina presto, molto presto, quando comincio ad arrampicarmi sulla strada che porta ad Amatrice, l'unica rimasta aperta dopo il terremoto e dopo le frane. Arrampicarmi è la parola giusta, perché se Amatrice è a quasi 1000 metri di altitudine, io mi troverò a superare anche un valico a 1300 metri sul livello del mare. Panorami bellissimi d'alta montagna. Qualche vacca, qualche cavallo, un leprotto che mi taglia la strada. Poche case sparse e via via che mi avvicino, poche case integre. Infine la strada si stringe in un imbuto fatto di auto della polizia, mezzi dei vigili del fuoco, camionette dell'esercito. Un vigile con gli stemmi della Polizia Metropolitana di Roma mi indica categoricamente di svoltare. Dritto non si va, dritto c'è il paese che non c'è più. Posteggio e mi metto in marcia, in senso proprio, perché da dove sono ormai non c'è nessun altro mezzo che le gambe per raggiungere la piccola frazione di Faizzone, dove la Coldiretti ha dato appuntamento per farci incontrare alcuni allevatori della zona. Sono compiti e determinati. Noi chiediamo due cose, sono un tetto per dormire con i beni necessari, acqua, luce, e soprattutto a noi serve una stalla per rimettere le mucche, per essere munte e comunque dove possano dormire. Tre baracconi, quella là sono 400 metri quadri, distrutto, 280 metri questa, distrutto, 220 metri quella su, distrutto. Qui aspettiamo 20 giorni, se non c'è una mano entro 20 giorni chiudiamo e ce ne andiamo fuori. Allora, gli animali stanno da fuori. Ah, ecco, ora stanno fuori. E allora mio figlio è vicino alle porte per mungere da rapini. Ci preoccupa la rifazione di questi fabbricati crollati, perché l'inverno è lungo ed è vicino e le mucche non è che si possono portare in albergo. L'assessore all'agricoltura della regione Lazio, Carlo Hausmann, pensa di poter giocare qui la stessa carta che dopo una terribile alluvione rilanciò un pastificio campano. Accanto al discorso del sistema produttivo bisogna fare delle politiche di marchio, quindi rivendicare in qualche modo l'origine geografica di questi prodotti. Qui abbiamo già tre prodotti interessanti nel caso di Amatrice, che sono un prosciutto, il guanciale con cui si dovrebbe fare la vera amatriciana e il pecorino di Amatrice. In più abbiamo un settore apistico che è cresciuto negli ultimi anni e quindi potrebbe essere al centro anche di una piccola politica di valorizzazione. È molto interessante il settore dell'agriturismo. Non è facile però, qui non ci sono grandi produttori o grandi trasformatori di prodotti alimentari che possano far fronte a un'eventuale richiesta nazionale. E comunque prima ci sono molti problemi da affrontare. Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti. Dobbiamo trovare soluzioni dalle tende a camper, roulotte, la possibilità comunque di avere un luogo in cui passare i prossimi mesi. Abbiamo la necessità dei ricoveri e abbiamo la necessità di dare liquidità anche economico-finanziaria alle nostre aziende. Quindi dall'anticipo dei premi comunitari alla possibilità di attivare nuove misure di piani di sviluppo rurale che consentano una ricostruzione rapida dove necessaria, fino alla sospensione delle scadenze tributarie, le scadenze fiscali, una moratoria dei debiti con gli istituti bancari per le imprese che vivono questo momento tragico, sono tutte azioni fondamentali che stiamo già su cui stiamo lavorando per avere risposte concrete quanto prima. Mi riavvio per i boschi e rientro ad Amatrice mentre prendo contatti con Adriana Cavaglià, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile del Consiglio Nazionale dei Geologi, che sta percorrendo queste valli in lungo e in largo. Abbiamo visto che effettivamente ci sono stati degli effetti anche di amplificazione del motosismico legato alla tipologia di sottosuolo, ma anche effetti di amplificazione legati alla morfologia del territorio. Ci sono dei centri abitati costruiti su dei rilievi contornati da versanti ripidi. Questa caratteristica può dar luogo pure a degli effetti di amplificazione legati proprio al alla morfologia del territorio. C'è una doppia amplificazione, possiamo dire, in alcuni punti? Sì, si possono verificare appunto queste amplificazioni legate sia alla stratigrafia che alla morfologia. Noi ce li siamo già seppelliti da soli, i nostri morti. Già, sono andato io con la cofana e con la cucchiaia. Nel frattempo è scoppiata la protesta degli amatriciani, che vogliono i funerali dei loro compaesani qui e non a Rieti. Significa che resterò fino a domani. Anzi, che ho il tempo di scendere all'Aquila e tornare domani. Gli aquilani hanno già vissuto tutto questo nell'aprile del 2009 e ne portano ancora le ferite. Una buona fetta del centro storico è ancora zona rossa, chiusa. In giro ci sono palazzi sventrati che non saranno mai risistemati adesso. E a 5-10 chilometri le New Town, gli insediamenti temporanei dai famosi balconcini cadenti. Li vado a vedere con Valeria Valeri, presidente dell'associazione culturale L'Aquila Volta la Carta. Il primo nucleo delle New Town è stato costruito a Cese di Presuro e sono state consegnate tra il settembre e l'ottobre del 2009. Sono stati costruiti 19 centri intorno alla città, più o meno distanti, alcuni indubbiamente troppo distanti, per esempio quello di Camarda, che è a più di 15 km dal centro. Questi sono dei quartieri dormitorio, in realtà non possiamo definirli New Town come città, non c'è un servizio che sia uno. A margine di queste case, perché queste sono delle strutture a palazzina, come vedi, sono stati costruiti nei vari paesi dei gruppi di MAP. Il primo ad essere consegnato, e probabilmente il migliore dal punto di vista della qualità, fu consegnato dalla Croce Rossa e dal Trentino Alto Adige ad Onna, e ancora adesso la popolazione sta in questo villaggio a fianco al paese che è ancora totalmente distrutto. Se abbiamo imparato una cosa qui all'Aquila è che le cose non sono le persone, sembra una banalità infinita quella che ho detto, ma intendo solamente questo, che i loro paesi continueranno a vivere se loro ci saranno, se loro ci crederanno, e loro saranno la vita del paese, non quella casa, non quel sasso, non quel cemento fatto la pesca quanto fragile, che in fondo l'ha traditi come ha tradito tanti aquilani. Per Amatrice si parla di MAP entro pochi mesi, ma per quanti anni poi, chi può dirlo? Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo aspro e duro e spietato gelo. Fuggi, quando torno su, il giorno successivo, comunque l'attenzione è solo per i funerali e le due tensostrutture che dovranno ospitare l'una la cerimonia solenne e l'altra i giornalisti, italiani e stranieri arrivati a decine. All'ora di pranzo, centinaia di auto e di persone affollano già le poche strade del paese rimaste aperte. Le autorità arriveranno invece in elicottero al piccolo eliporto organizzato e gestito dall'aeronautica militare. Lo dirige il tenente colonnello Paolo Tamburro. Insieme a tutte le forze armate che hanno come compito istituzionale quello di supportare le popolazioni in caso di calamità, siamo stati allertati, siamo stati mandati nell'area interessata dal terremoto. E al momento, come ha detto il consigliere della difesa, sono coinvolti tutte e tre le forze armate con 1300 persone schierate nelle aree del disastro, con circa 500 mezzi, e in quest'ambito l'aeronautica militare, di cui io faccio parte, ha allestito ad Amatrice una zona di atterraggio elicotteri, si chiama tecnicamente, come si sente anche dal fondo, stanno passando gli elicotteri, con l'obiettivo di assistere la popolazione. Oltre alla zona di atterraggio elicottero in cui noi siamo, dove c'è il servizio meteo, il servizio al traffico aereo, ci sono i marshaller, quelli che chiamiamo noi i marshaller, che hanno il compito di parcheggiare gli aeroplani, c'è un servizio carburante, una predisposizione antincendio. L'aeronautica militare ha garantito inoltre tre elicotteri rischierati nell'aeroporto di Rieti, e nello stesso aeroporto di Rieti sono rischierati i nostri sistemi campari per l'impianto voli notte, per consentire a quell'aeroporto non abitato ai voli notturni di poter operare in questi casi di emergenza anche nei voli notturni. Il sindaco Sergio Pirozzi scongiura i giornalisti di lasciarlo andare a fare almeno una doccia prima della cerimonia, ma alla fine si concede. La prefettura con la protezione civile hanno messo in moto una macchina straordinaria, io le ringrazio, cioè non è che serve il numero, noi pure se siamo 100 è uguale, no? Lei dice ci serve il simbolo. Bravo, cioè non è un fatto di bare, non è un fatto di pubblico, da stadio, era un modo, diciamo, di raccoglimento per questa comunità. All'eliporto intanto l'aeronautica ha il suo da fare. Sotto una pioggia battente atterrano il capo dello Stato Mattarella, il premier Renzi, i presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso, il governatore del Lazio Zingaretti, non il Papa ma il suo elemosiniere, l'arcivescovo Krajewski. Dal pulpito, davanti alle bare, il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, serve su un piatto d'argento il titolo di apertura alla stampa. Il terremoto non uccide, uccidono piuttosto le opere dell'uomo. Io batto i denti per il freddo, preludio dell'inverno che sarà, forse, mentre raccolgo la promessa del presidente del Senato, Pietro Grasso. Io mi impegno a venire fra 3 settimane, 4 settimane, e poi ripetutamente, perché bisogna asciugarsi le lacrime e incominciare a ricostruire. Me lo ripropongo anch'io, tornare e non dimenticare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.